Trattato Megillah, capitolo 1, Mishnah Daled, quarta Mishnah di questo primo capitolo. Come voi sapete benissimo, ecco, stasera sarà Rosh Chodesh. Come si fissa il momento in cui è Rosh Chodesh? Allora, noi seguiamo un lunario, un calendario già prefissato, ma noi abbiamo una mitzvah, tra l'altro la leggiamo proprio nella parashah di questa settimana, di santificare i mesi. Kiddush HaChodesh, santificazione del mese. E ci sono due modi per santificare il mese. Il mese, per essere considerato un mese ebraico, deve essere fatto santificare da parte del Sanedrin. E ci sono due modi, appunto. Un modo è che il Sanedrin, la corte, riceve testimonianza da parte di due testimoni, almeno due testimoni validi, che hanno visto la nascita della nuova, quindi la nuova luna, e in base a questa testimonianza potrebbero decidere che si accetta la testimonianza e che Mekadshim santificano et HaChodesh, il mese. Nella mancanza di questa possibilità, o che è nuvoloso o che non c'è possibilità di prendere testimonianze, eccetera, qualsiasi siano le circostanze, fossero le circostanze, allora il Beit Din può fare il Kiddush HaChodesh secondo il calcolo della nascita della nuova luna, senza la visione stessa. Quello che noi facciamo oggi, i nostri mesi sono già stati santificati dall'ultimo Sanedrin, che hanno fatto il calcolo di tutti i seguenti del calendario perpetuo e hanno fatto il Kiddush HaChodesh anche fino in perpetuo, anche fino a noi, ok? E quindi il Kiddush HaChodesh è una questione di base nell'ebraismo, perché in base a questo noi abbiamo i tempi, i giorni, i Moadim e tutto quanto quello che è l'anno ebraico. Oggi noi sappiamo se un anno sarà un anno normale, in cui c'è solamente un mese di Adar, oppure un anno in cui si aggiunge un tredicesimo mese e ci saranno due mesi di Adar, quindi Shanah Me'uberet, un anno con un ulteriore mese di Adar. Però quando, nel momento in cui si facesse il Kiddush HaChodesh in base alla visione della nuova luna, allora non necessariamente si saprà da prima se il mese di Adar sarà uno o se ne saranno due. Anche perché le considerazioni in quelle circostanze per fare un secondo mese di Adar possono venire a galla a volte solamente una volta già iniziato il primo mese di Adar. Per esempio, una delle considerazioni più importanti è quella che il Pesach deve essere durante la primavera, Chodesh Aviv, come è scritto nella Torah. Se noi vedessimo, e siamo per esempio già nel mese di Adar, e vedessimo che è molto ancora invernale, la stagione è ancora invernale, e se dovesse essere Pesach tra 2-3 settimane ancora saranno le piogge, ancora sarà difficile accedere al Beit HaMikdash per una gran parte del popolo, eccetera, eccetera, allora si potrebbe decidere durante il primo mese di Adar di fare un secondo mese di Adar successivamente. La nostra Mishnah tratta un particolare che riguarda il caso in cui Purim fosse già passato, quindi è stato fatto Purim il 14-15 di Adar, come sempre, e dopo si è aggiunto un altro mese di Adar. Come ci si deve comportare se bisogna fare Purim un'altra volta, nel secondo mese di Adar? Normalmente si fa il secondo Adar, Purim. Due volte. No, quando viene... Quando noi sappiamo da prima, Si fa dopo. Quindi nel nostro caso, si fa Purim nel secondo Adar, perché è nell'Adar che è vicino a Pesach. Questo vediamo più avanti. Ok. Vediamo il testo della Mishnah. Scusa, una domanda. Sì, prego. Quando si vede la luna, no? Sì. Normalmente, se il Sanedrin aveva già calcolato, dovrebbe dunque combaciare con vedere la luna. Assolutamente sì. Quando il Beit Din accetta la testimonianza della nuova luna, il Beit Din sa se fosse possibile che ci sia la nuova luna in quel momento in cui i testimoni dicono di averla vista. Con il calcolo. Certo, devono conoscere bene il calcolo astronomico e in base a questo possono potrebbero convalidare la testimonianza dei testimoni, cioè il Beit Din non campa per aria, sanno se è plausibile e quindi fanno anche, pongono delle domande ai testimoni basate sulle loro conoscenze e in base alle risposte dei testimoni possono sapere se stanno dicendo una cosa. Non è Zomemin, però potrebbe anche essere Zomemin lì. Ok, torniamo al nostro testo. Comunque è molto bello quando si fa legame da una cosa che si studia in un aspetto della Torah e si lega ad un altro aspetto. Questo significa che si sta studiando, non con la scienza, diversi aspetti della Torah. Stiamo studiando Megillah e tu mi dici Zomemin, questo è bello, è bellissimo. Che significa che ti studi una cosa e ti viene in mente una cosa da un'altra fonte nella Torah. Vuol dire che hai già studiato tanto, Baruch Hashem. Allora, vediamo il testo. Karu et Megillah ba'Adar Arishon. Se avessero letto la Megillah durante il primo mese di Adar, in quel momento c'era solo un mese di Adar, che poi diventa il primo, perché Venit Abera Hashanah. Hanno deciso poi di fare che sia una Shanah Meuberet, un anno embolismico, mi sembra si chiama in italiano, quindi con un ulteriore mese di Adar. Bisestile. Bisestile è quando c'è un giorno in più in realtà, questo c'è un mese in più. Corin Otaba Darasheni, allora si legge la Megillah un'altra volta nel secondo mese di Adar. Perché una volta adesso che c'è il secondo Adar, non siamo più usciti l'obbligo con il primo Adar, con il Purim che abbiamo fatto la lettura della Megillah nel primo Adar. Ora, la Mishnah parla, nel caso normale in cui si sapesse da prima che c'è già il secondo Adar, e quindi chiaramente non abbiamo fatto il primo Adar, no, scusate, il Purim nel primo Adar, tuttavia si segna comunque la data, il 14 e il 15 di Adar, anche il del primo Adar, si segna la data, anche se non si legge la Megillah. Ora vediamo la differenza tra il primo Adar e il secondo Adar, quando già si sa da prima che c'è. E la Mishnah dice, En ben Adar Arishon la Adar Asheni, non c'è differenza tra le date festive del primo Adar e del secondo Adar, e la Kriyata Megillah Matanot la Evionim, se non che la lettura della Megillah e i doni ai poveri. Questo in realtà la Mishnah intende includere anche le altre mitzvot di Purim, e cioè i doni di cibo agli amici e il mishte, il pasto festivo. Quindi questa è l'unica differenza. Cosa significa questa è l'unica differenza? Significa che per ciò che riguarda giorni semifestivi, anche il 14 e il 15 di Adar sono considerati giorni semifestivi. Non si dice il Tachanun, non si fa Hesped, l'elogio funebre se ci fosse un funerale, non si fa Ta'anit, non si fissano questi giorni come giorni di digiuno per qualsiasi sofferenza o problema. Quindi sono sempre considerati giorni festivi. Però l'osservanza positiva, cioè la proattività di fare Megillah, doni ai poveri, Mishte, i quali quattro mitzvot di Purim, questo solo nel secondo Adar. Però vedete come la Mishnah lo esprime, la Mishnah dice l'unica differenza sono queste cose, ma per il resto sono uguali. Significa che c'è sempre la festività, il senso di semifestività, diciamo così, non è Moed, perché Purim non è mai Moed, però è vietato Hesped, è vietato Ta'anit, non si dice Tachanun, sono giorni semifestivi. Ma le osservanze della giornata sono nel secondo Adar, sì. Ok? Mishnah Hei, dimmi. No, vabbè, fa niente. Dimmi. No, perché fai conto che se tu aggiungi decidono di aggiungere il mese in più. Ok, qui abbiamo detto se già si sa da prima, ok. Se invece però, si decide dopo. Alcune cose si fanno al mese dopo, no? Tutto si rifà il mese dopo. Il giorno di Purim capita di Shabbat. Se tu aggiungi un mese, che fai? Abbiamo parlato l'altra volta. Cosa succede se Purim viene di Shabbat? Si anticipa, no? Dico gli obblighi. Tu dici le quattro cose. Sì, cosa si facesse se fosse un mese e Purim venisse di Shabbat? Stessa cosa, non cambia il fatto che sono due. Sì, no, perché ho visto una cosa è l'obbligo, tu fai quello tranne quello. La stessa cosa si fa nel secondo mese. Quello che noi abbiamo letto nella seconda Mishnah del nostro capitolo, che abbiamo detto se Purim venisse di Shabbat, si anticipa le osservanze di Purim al venerdì, sì. Vero? E le città cinte dalle mura, lo fanno l'indomani. Stessa cosa, okay. Stessa cosa se primo o secondo mese di Adar, non cambia. Ora, la nostra Mishnah ha usato un'espressione, questa appena letta, En ben Adar Rishon le Adar Sheni, non c'è differenza tra il primo Adar e il secondo Adar, se non che le mitzvot che si mettono in atto durante Purim. Ma per la festività è uguale, vero? Ok, allora adesso siamo testimoni di un fenomeno, di come funziona la Mishnah, e eravamo già testimoni di questa cosa. Se voi vi ricordate, abbiamo studiato nel trattato di Pesachim, se non sbaglio il sesto capitolo, Makom Shenahagu, è intitolato Luogo in cui si usa non lavorare già la mattina della vigilia di Pesach, è vietato lavorare la mattina. Là dove si usa concludere il lavoro solo dal mezzogiorno della vigilia di Pesach, allora si fa dal mezzogiorno. Visto che il trattato è Pesachim, è Pesach, e quindi si parlava della vigilia di Pesach, ma una volta si è introdotto il concetto di Makom Shenahagu, luogo in cui si usa fare così, si fa così, e luogo in cui si usa far così, si fa così, la Mishnah ha proseguito a portare altre circostanze non legate a Pesach, ma sempre con l'impostazione Makom Shenahagu. Abbiamo parlato lì di fare, di lavorare Tisha B'Av, Makom Shenahagu, tante cose che anche non c'entrano con lavoro, diverse cose, concetti che legati all'usanza del posto, Makom Shenahagu. Ok? Una cosa simile la vediamo adesso nel nostro capitolo qua. Abbiamo detto non c'è differenza tra il primo Adar e il secondo Adar, se non che per eccetera eccetera. Ora facciamo altre cose che possono essere simili, ma che hanno delle differenze, e quindi usiamo il termine en ben, non c'è differenza tra questo e quello, se non che tale cosa. Vediamo ora di che si tratta, ce ne saranno varie, ok? Questo è un modo in cui la Mishnah funziona, perché questo è più facile ricordare in questa maniera, perché Mishnah va ricordata, va ripetuta, va fatta a memoria. Allora quando tu dici en ben, allora aggiungi un altro en ben e un altro en ben. Non a caso Mishnah, che è ripetizione. Esattamente, per questo si chiama Mishnah. Molto bene. Mishnah, hey! Da qui fino alla fine del capitolo parliamo di en ben, fuori dal contesto di Purim in realtà e della Megillah. Poi torneremo alla Megillah. En ben Yom Tov la Shabbat, per ciò che riguarda il divieto di Melacha, divieto delle 39 Melachot, le 39 opere creative che la Torah vieta di fare Shabbat e di fare Moed, qual è la differenza tra Shabbat e Moed per ciò che riguarda le Melachot? En ben Yom Tov la Shabbat Ela, l'unica differenza è Ochel Nefesh Bilvad. E durante Moed le melachot legate a Ochel Nefesh, al cibo necessario, sono permesse. Per questo è permesso cucinare di Moed e per questo è permesso trasportare di Moed. È tutto incluso in questa cosa di Ochel Nefesh. Ok? Questa è la prima differenza di cui la Mishnah parla, dopo la differenza del primo e secondo Adar. E perché? Perché nella Torah è scritto Ach asher yeachel lechol nefesh, che il giorno di Moed è un giorno di festività solenne come lo Shabbat, tranne Ach asher yeachel lechol nefesh, tranne ciò che dovrà essere usato per mangiare per ogni persona, hu levado yeaseh lachem, quello sì si potrà fare, per questo è permesso cucinare di Moed. Shabbat no. Seconda cosa. En ben Shabbat li Yom Kippurim, per ciò che riguarda la differenza tra Shabbat e Kippur. Anche Kippur è vietato fare le melachot. Kippur non si mangia, quindi è anche vietato cucinare, non come Moed. Quindi qual è la differenza tra Shabbat e Kippur? Ela, sheze zedono bide Adam, veze zedono bekaret. La differenza è nella punizione, nella conseguenza. Zedonos viene dalla parola mesid. Mesid significa colui che lo fa apposta, non per sbaglio, non per dimenticanza, che si chiama shogeg. Chi fa una melacha be shabbat, be mesid, volontariamente, con l'intenzione di farlo, allora la sua conseguenza è in mano bidei Adam, è in mano al Sanedrin, uomini materiali, bidei Adam. Invece, quello che lo fa, la stessa cosa di Kippur, non è in mano a Beide Adam, Be'karet, è una punizione spirituale in mano al cielo che si chiama Karet, il ritagliare la sua anima dalla fonte, che è una cosa che è gestita dall'alto, non è gestita dal Sanedrin. Mishnah Vav. Qui entriamo in un discorso di voti, qualora qualcuno facesse un voto. Ok? E dice, io mi astengo, mi assumo un voto che mi astengo da qualsiasi beneficio che potrei trarre da te. Due persone hanno litigato e uno dice, io da te non voglio avere nulla, nessun tipo di beneficio. Si chiama mudar hana'a, mudar dalla parola neder, voto, hana'a, qualsiasi trarre beneficio, di qualsiasi tipo. Un altro caso potrebbe essere in cui uno dice mudar ma'achal. Per esempio, una persona dice all'altra, vieni a mangiare con me, andiamo a prendere la pizza, vieni a casa mia, prendiamo un caffè, prendiamo un dolce, lo fa impazzire. Quello dice, io da te non voglio mangiare niente. Faccio un voto. Mudar ma'achal. Qual è la differenza tra chi fa un neder di non trarre beneficio in maniera generica e chi fa un neder in maniera specifica riguardo il cibo? Allora vediamo. En ben, non c'è differenza tra hamudar hana'a mechavero, colui che ha fatto il voto di astenersi da qualsiasi tipo di trarre beneficio dal prossimo. E tra questo è la mudar mimenu ma'achal, colui che invece fa il voto legato al cibo. L'unica differenza è la drisata regel, il calpesto, il calpestare nella sua proprietà. Vekeilim she'en osim bahen ochel nefesh. Cioè, cosa ha in più colui che dice io non traggo beneficio proprio rispetto a colui che dice io non traggo beneficio a livello di questioni alimentari? Che colui che dice la cosa generica è vietato anche calpestare per lui nella proprietà che appartiene all'altro. Non deve nemmeno entrare. Non può neanche calpestare. Significa, se per andare a prendere l'acqua deve passare in un giardino o un campo che appartiene a quel pinco pallino, è vietato per lui passare lì. Verso il quale lui, perché lui ha detto non traggo beneficio da te in maniera generica. Nemmeno il beneficio di passare. Nemmeno il beneficio di calpestare sulla sua proprietà. E vekelim she'en bahem ochel nefesh, kelim, recipienti o utensili che non sono usati per cibo, ok? Non può prenderli in prestito da quella persona. Se gli dice mi serve la macchina per un'ora, non può prenderlo. L'altra persona che ha fatto il neder solo per cibo può calpestare nella sua proprietà e può trarre beneficio da oggetti che appartengono all'altro che non sono legati al cibo. Questo cosa significa? Che chi fa il neder per non trarre beneficio a livello alimentare non può neanche prendere il gancio della macchina per fare l'impasto, qualsiasi cosa che è legato all'alimento, non solo non prendere il caffè, ma neanche prendere il bicchiere per il caffè. Invece la macchina sì, la può prendere, può affittare la macchina da lui o prenderla in prestito, perché è solo legato al cibo. Quello invece che fa la cosa generica, neanche quello, qualsiasi utensile e neanche il calpestare nella sua proprietà sarebbe permesso. Come parli se fitti? Un altro en ben si aggiunge, sempre legato in qualche maniera al neder. Quando si fa un voto di fare un'offerta al Bet HaMikdash, ok? La matana. Come la matana, che si chiama o neder o si chiama nedava. E c'è una differenza tra il neder, che è il voto. Chi è il soggetto del voto? Qual è il soggetto del voto? La persona. Invece nella nedava, che significa l'offerta, il dono, il soggetto è la cosa che viene donata. Quindi ci sarà una differenza tra queste due situazioni. Vediamo un po'. Ein ben nedarim le nedavot. Non c'è differenza tra il neder e la nedava. Quando uno dice io mi assumo di fare un korban, questo è un neder. Io sono il soggetto della frase, quindi diventa un neder. Io mi assumo di fare un korban, di portare un'offerta al Bet HaMikdash. Se invece la persona dice questa bestia sarà una Nedavah, sarà offerta al Bet HaMikdash, il soggetto cambia. Questo si chiama Nedavah. Cosa cambia? Sì, cambia la terminologia e cambia il soggetto, se il soggetto è la persona che si assume il voto, se il soggetto è l'oggetto che va donato. Ma cosa cambia? La Mishnah dice c'è una differenza. Un'unica differenza sarà ricordata qui nella Mishnah. Ela solamente, she'anedarim chayav be'acharayutan, unedavot eino chayav be'acharayutan. Se il soggetto sono io, quindi è un neder, sono anche obbligato ad assumere la responsabilità. Acharayut significa responsabilità. Cosa si intende per responsabilità? Si intende, se io dico, io mi assumo di portare un korban, ok? E succede che viene rubato, o perso, o muore quella bestia che avevo in mente di portare come korban, visto che sono io il soggetto, non era la bestia il soggetto, nel caso che abbiamo fatto, sono io il soggetto, quindi sono sempre obbligato a portare un altro korban a posto di quello che non poteva essere portato. Rimane l'obbligo, perché io ci sono e io sono il soggetto del neder, lo devo sempre fare. Se invece io dico questa bestia sarà Nedavah, sarà donata, e la bestia viene rubata o muore, allora eino chayav b'acharayutan, non sono obbligato a portare un'altra al posto suo. Scusa, sì? Può avere un minimo di attinenza concettuale in qualche modo interfumata? Quando abbiamo parlato, sì, di Kippur, nel capretto, che dipende il caso, se già destinato, già sorteggiato, poi manca uno, manca l'altro, allora, cioè, allora lì si prende, non si prende. È un buon paragone, nel senso che, se vi ricordate, abbiamo studiato della Masechet Yomah. Quanto abbiamo studiato, Baruch Hashem, Masechet Yomah, nel trattato di Yomah, abbiamo studiato riguardo i due capretti, Shnei Seirim, uno la Hashem e uno la Azazel. E abbiamo parlato che se uno non c'è più, allora se bisogna averne altre due, o se basta portare un altro uno. E se il sorteggio era già venuto oppure no. Oh, allora ecco la risposta. Quindi non è attinente al discorso di Nedarim e Nedavot. Lì è un discorso diverso che si basa su cosa? Si basa sull'idea che la Torah dice che devono essere due. Una volta siamo arrivati alla fase, come la Mishnah descrive lì, che sono già, diciamo così, destinati totalmente insieme questi due, poi uno non c'è più, allora bisogna portarne altre due, perché devono essere portate insieme a quella condizione, a quella condizione come coppia. Ma questa è una cosa specifica dei Shnei Seirim, dei due capretti, e non è attinente al mondo di Nedarim e Nedavot. C'è anche un'altra differenza, scusa se concludo, perché Nedarim e Nedavot sono obblighi personali. Non sono korbanot a nome di tutto il popolo ebraico, come i Shnei Seirim, che il Kohen Gadol porta per tutto il popolo ebraico. Che è una cosa diversa, non c'entra con Nedavim e Nedavot, di nuovo, che sono obblighi personali. Sì, Leo? No, se c'è pure a che fare con la decima, con tutti i doni che vanno portati, raccolti. Maser? Il Maser, ok. Avere a che fare pure, che io praticamente so che mi si potrebbe rovinare quello che io ho stabilito, per cui lo tramuto in soldi quello che io ho. Ah, questo è il Maser Sheni. Maser Sheni è nel corso del ciclo dei 7 anni, perché seguiamo un ciclo di 7 anni che conclude con la Shemitah, l'anno sabbatico. E nel corso di questi anni ci sono 2 anni in cui, se non sbaglio, il terzo e il quinto anno, però posso sbagliare, in cui il Maser che si devolve si chiama Maser Sheni. Cioè si devolve la decima normale, poi che va a Levi, poi si devolve un'altra decima, in alcuni anni l'altra decima va ai poveri, Maser Ani, e in altri anni il Maser rimane di propria proprietà, si chiama Maser Sheni, secondo Maser, però va consumato solamente, esclusivamente a Gerusalemme. Allora è chiaro che se uno avesse quantità o non avesse il tempo di andare subito, non può portare tutto a Gerusalemme, però potrebbe tramutare la santità del Maaser Sheni, quindi la condizione di Maaser Sheni, a del denaro, e poi portare il denaro a Gerusalemme. Il cibo che acquisterà con questo denaro è considerato cibo di Maaser Sheni. E questo è un altro discorso ancora. Quindi, Leo, sì? No, non so se è corretto quello che penso, però anch'io non lo so. Se il voto, no? Entrambi i casi sono legati al fatto di pronunciare la cosa, no? Dici questo è... Sì. Però mi è venuto in mente, quando venerdì sera tu fai la mozzina, sì, che prendi due pani, sì, uno lo tagli per distinguerlo, quello di destra, che sarà quello destinato alla mozzina, ok, quello è considerato anche voto, anche se non l'ho detto? No. Non li posso cambiare per una volta che l'ho determinato uno. Non è vietato cambiarli. Puoi tagliare il secondo se vuoi. Non è vietato. Però io penso a quello al momento. Va bene, allora taglia non quello. Non è un voto quello. Però non è un voto. Ok. Altre domande? Leo, c'è la domanda. Eh? L'anno scorso avevo studiato i vari tipi di custode, no? Vari tipi di custode, sì. Per cui chi custodisce l'animale che è destinato a un voto, che tipo di custode? Ah, buona domanda. Chi custodisce... Allora, dipende. Se è la persona stessa, allora non è considerato un custode. Se di nuovo rientriamo in quello che abbiamo detto, se è Nedavà, allora non c'è Achrayut, non c'è responsabilità, significa non deve rimpiazzarla. Se è Neder, allora deve rimpiazzarla, se è la persona stessa. Se lui la dà invece a un'altra persona da custodire, si applicano le stesse regole, come se non fosse un Neder o una Nedavà. In base al loro accordo può essere uno dei quattro tipi di custodi. Quindi ci sarebbe la stessa regola. Quindi riassumendo, se è Neder o Nedavà, è uguale. Se lo dà in custodia a qualcuno, tornando si applicano. Questo, allora, se Nedro ne davà è tutto uguale, a parte il fatto di doversi assumere la responsabilità di rimpiazzarlo nel caso non ci fosse più. Se Neder, quindi sono io il soggetto, se grazie a Dio io ci sono, allora devo rimpiazzare. Se il soggetto è l'animale o la Nedavà che sia, allora e non c'è più, allora non sono più obbligato a a rimpiazzarlo. Ok, concludiamo qui. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, altre 5 Mishnayot su En Ben, che ognuna ci introdurrà dei nuovi concetti molto interessanti. Non collegavo questo En Ben perché forse magari... Allora, esatto, solo un secondo. Ok.